A bordo campo di Dario Ricci. L'ultima volta che ci abbiamo provato è andata a finire così. L'organizzazione dell'Euro, dell'UEFA Euro 2012, è attribuita a Pologna-Ucraina. Era il 18 aprile del 2007, la voce, quella del presidente dell'UEFA, Michel Platini, festa grande a Kiev e a Varsavia perché Polonia ed Ucraina si aggiudicavano l'organizzazione degli europei di calcio del 2012, delusione a Roma e dintorni perché proprio l'Italia era la favorita d'obbligo per questa assegnazione ed era stata così sconfitta a sorpresa proprio sul filo di lana. Stavolta ci riproviamo, data decisiva sarà il 28 maggio prossimo, 2010, quando l'UEFA assegnerà gli europei del 2016. Ancora Italia in pista, le nostre avversarie, la grande favorita del momento, la Francia e poi la Turchia, comunque candidatura sempre insidiosa. Ospite di A Bordo Campo per parlare della candidatura italiana Euro 2016, Michele Uva, project manager del progetto appunto Euro 2016 per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Buongiorno e benvenuto A Bordo Campo, dottor Uva. Allora, questa volta come andrà a finire? Non sappiamo come andrà a finire, però penso che fosse un dovere della Federcalcio, e questo in prima persona quello che ha detto più volte Abete, preparare un dossier che non è solo l'analisi della parte del calcio, ma è una visione, diciamo, del sistema sportivo trasversale anche a tanti altri aspetti, prima fra tutto, come sapete bene, quello degli stadi, ma anche quello delle infrastrutture, quello delle infrastrutture a servizio degli stadi e di accommodation, di aeroporti, quindi veramente una visione del paese a 360 gradi. Penso che la federazione abbia presentato un dossier all'altezza dell'Italia e a questo punto però c'è la parte politica che deve iniziare a fare il proprio lavoro. Per qualche mese si è parlato anche di una possibile candidatura congiunta Italia-Francia. C'è stata mai concretamente la possibilità di una candidatura congiunta Roma-Parigi? Questa ipotesi è già stata caldeggiata all'inizio delle candidature. Poi la Francia ha deciso di andare da sola, ma non penso non c'era mai stato nulla di concreto, quindi ci siamo mossi da soli. Io penso che l'Italia ha comunque tutte le caratteristiche e le potenzialità per ospitare un europeo, il primo a 24 squadre, che genera circa 3 miliardi di giro d'affari, quindi è un evento complesso, ma penso che tutte le componenti e tutta la chimica c'è per poter vincere. C'è bisogno della parte della federazione, della parte del CONI, della parte del governo. Io penso che queste cose si vincano quando si lavora tutti insieme. Soprattutto per quello che riguarda la legge sugli stadi, no? Che è ancora ferma in Parlamento. A che punto siamo? E direi che quello è un passaggio cruciale per rendere credibile questa corsa all'europeo. È indubbio che la legge sugli stadi possa favorire la candidatura, ma non è indispensabile per la candidatura. Però lancerebbe un segnale, diciamo, prima di tutto alla UEFA, cioè quello che realmente l'Italia ha deciso di affrontare il tema, diciamo, il tema degli stadi, che dove oggi siamo in ritardo senza dubbio su altri paesi d'Europa, non in ritardo rispetto alla Francia, questo sia chiaro. Anche se la Francia ha fatto una legge circa un anno fa insieme alla lettera di candidatura, quindi anche da questo punto di vista sono avanti. I progetti che noi abbiamo fatto sono progetti funzionali, si parla di un investimento di 750 milioni di euro per rimettere a posto 12 stadi secondo criteri non attuali, ma secondo criteri del 2020, quindi per stadi importanti con skybox, con parcheggi, con aree hospitality, mentre nella Francia servono più o meno quasi 2 miliardi di euro. Da questo punto di vista partiamo avvantaggiati noi. La legge sugli stadi è importante, il sottosegretario Crimi lo sa, l'onorevole Lolli e il senatore Butti, che sono i primi firmatari, lo sanno. Stiamo anche noi cercando di dare una grossa mano in termini di contributi sul testo. vedo il traguardo, però ecco, non voglio essere troppo ottimista. Senta, parafrasando Cavour, fatti gli stadi bisogna poi fare i tifosi, no? E, autorevoli ambasciatori dell'Italia, del calcio italiano nel mondo, uno su tutti, Fabio Capello, denunciano ormai periodicamente il fatto che il calcio italiano è in mano agli ultra. Ecco, che valore può avere in questo senso questa candidatura e quali possono essere i passi concreti per bonificare i nostri stadi parallelamente a questo processo organizzativo politico che deve portarci ad avere a vincere questa corsa Euro 2016? Non condivido totalmente il pensiero di Capello, anche perché ho vissuto 7 anni di gestione diretta di squadre di Serie A di calcio e mi sembra eccessivo dire che le società sono in mano agli ultras. È chiaro che è una parte importante del tifo, no, è spesso chiaramente al limite borderline rispetto a quello che dovrebbe essere la gestione della società, però non sono loro che determinano le strategie. È vero che nuovi stadi, questo l'hanno dimostrato, è stato dimostrato da vari esempi in tutta Europa, i nuovi stadi portano un nuovo tipo di tifoso, portano famiglie, riavvicinano e cambiano il clima della partita. Quindi io penso che i nuovi stadi e le nuove strutture siano centrali rispetto a un progetto e un programma che vede oltre, diciamo, il 2020, quindi diventa indubbiamente strategico. Altrettanto vero che l'esercizio che è stato fatto col Ministero degli Interni proprio per la candidatura degli europei è anche quello di rivedere una serie di norme che possano portare a uno stadio decisamente vivibile, non a uno stadio blindato o, come si dice spesso, militarizzato. Siamo indietro e questo lo sappiamo, ma altrettanto vero che se non si instaura un percorso virtuoso non si arriva mai a cambiare le cose come realmente vorremmo. Immagino anche, dottor Uva, che a ogni coro contro Mario Balotelli o contro Samuel Eto'o, contro uno dei tanti giocatori di colore, italiani o no, che calcano i nostri campi, oltre allo sdegno dal punto di vista etico, nella sua mente ci sia anche una legittima preoccupazione, perché quelle sono vere e proprie mazzate alla credibilità di una candidatura che vuol rappresentare l'Europa, che nel 2016 probabilmente sarà ancora più all'insegna della multietnicità e dell'integrazione, no? Sicuramente non ci aiuta, per questo parlo di un nuovo percorso virtuoso che proprio tutto il calcio dovrebbe fare, a partire chiaramente da coloro che hanno delle responsabilità nei posti importanti del calcio e dello sport italiano. Sforzi se ne sono stati fatti, spero che altri se ne faranno. L'importante è la percezione, ma questo l'ho vissuta parlando con il sottosegretario Crimi e il suo staff, parlando con il presidente Abete, parlando con tutti, anche i presidenti delle squadre sportive che comunque hanno partecipato al processo di candidatura. Mi sembra che ci sia la voglia della svolta. È altrettanto vero che le svolte poi avvengono, come diceva Manzoni, poi le istituzioni camminano sulle gambe delle persone, quindi sarà importante avere persone che credono a questo percorso e lo intraprendono, compreso giovani nuovi manager che devono per forza di cose affacciarsi al mondo dello sport, al mondo del calcio, per portare una nuova mentalità, una mentalità che guardi avanti e aiuti il calcio a crescere. Dottor Uva, le chiedo ancora, ogni volta che l'Italia si presenta e avanza una candidatura ad ospitare un grande evento sportivo, c'è chi da un lato agita il fantasma di Italia 90, le cattedrali nel deserto, gli sprechi di soldi, e chi anche su questa falsa riga sottolinea quanto poi questi investimenti infrastrutturali siano a rischio di speculazione, nella migliore delle ipotesi, di infiltrazioni malavitose, nella peggiore. Anche la cronaca di questi giorni ci ricorda quanto sia difficile blindare questi grandi appuntamenti e questi eventi nel nostro paese da questo rischio. Da questo punto di vista, Euro 2016 sta studiando un qualcosa in particolare, e faccio riferimento ad esempio a una task force anticriminalità, così come sta cercando a fatica di mettere a punto la Milano che ospiterà l'Expo. State pensando a un qualcosa di particolare in quest'ottica? e da questo punto di vista non abbiamo affrontato il problema, che è chiaramente un problema che va al di sopra di quelle che sono le responsabilità e le competenze della federazione. È indubbio che abbiamo, come dicevo prima, abbiamo studiato un progetto che sia economicamente e finanziariamente sostenibile, con il coinvolgimento delle 12 amministrazioni comunali che sono, diciamo, all'interno del dossier, ma anche dell'intero sistema paese, che ci sono delle importanti città che sono rimaste fuori perché non avevano l'impianto adeguato, che comunque saranno coinvolte. Parliamo di sostenibilità di progetti, quindi dove c'è il coinvolgimento delle amministrazioni, dove c'è il coinvolgimento della federazione, dove ci sarà, deve essere per forza di cose, il coinvolgimento sia del CONI che del governo, e penso che tutti insieme si possano creare le condizioni affinché non ci siano speculazioni, ma qualsiasi intervento, anche perché in questo caso per il momento parliamo di soldi pubblici, nel momento in cui, quindi delle amministrazioni comunali, nel momento in cui dovesse andare la legge in porto parleremo di investimenti privati, a quel punto penso che sia importante che tutto il sistema paese si metta intorno al progetto. E penso di dire, non entro nel merito degli stadi di Italia 90 perché ne si è già troppo parlato, ma sono convinto che i nuovi stadi dovranno essere tutti economicamente sostenibili, portare nuove risorse alle società, ma soprattutto non sprecare dove non ci deve essere investimento di denaro pubblico. Le recenti Olimpiadi di Vancouver, sotto il profilo organizzativo, hanno fatto venire nostalgia di quella Torino 2006 che pure 4 anni fa era stata tanto bistrattata. Crede che la stessa cosa potrà accadere con gli europei di Ucraina e Polonia rispetto a quella candidatura italiana che invece risultò clamorosamente sconfitta? Io penso che nel 2012 la federazione si presentò con un dossier sicuramente all'altezza dell'Italia e con un dossier superiore a quello che era quello di Polonia e Ucraina. È ovvio che Polonia e Ucraina sta avendo dei grossi problemi da un punto di vista organizzativo. Noi puntiamo sulle capacità dell'Italia da un punto di vista organizzativo, non pensiamo che l'Italia sia seconda a nessuno al mondo per capacità di aeroportuale, di trasporti interni, ormai di alta velocità, di infrastrutture tecnologiche, quindi a questo punto le caratteristiche ci sono e tutto bisogna convincere 13 persone, coloro che andranno a votare il 28 di maggio, che l'Italia è un paese credibile. Questo è l'obiettivo da qui al 27 di maggio e noi siamo pronti per fare la nostra parte. A bordo campo. Alla vigilia della 33esima Coppa America di vela, l'equipaggio americano di BMW Oracle Racing la pensava così. Really, in the America's Cup, the fastest boat normally wins and has the best chance of winning. So we've been primarily focused on making this boat as fast as possible around the racetrack. We're working 3 years. We've been pushing hard and we want to win this cup. Ebbene, dopo 2 anni di battaglie legali, il responso più veritiero, quello del mare, ha dato ragione proprio a Larry Ellison, alla sua imbarcazione ipertecnologica, con la sua immensa ala rigida e al suo equipaggio. 2-0 ai detentori svizzeri di Alinghi nelle acque di Valencia e America's Cup che torna così negli Stati Uniti. E allora è tempo già di pensare al futuro, che sarà all'insegna dell'Italia, perché BMW Oracle ha già indicato quello che sarà il suo sfidante ufficiale per la prossima edizione. L'italianissimo mascalzone latino dell'armatore e navigatore Vincenzo Onorato, che ora proprio con i detentori dovrà definire le nuove regole della prossima sfida. Signor Onorato, benvenuto a bordo campo prima di tutto. So che in questo momento tra l'altro è in collegamento telefonico da Boston, non è che già alle prese con la nuova edizione dell'America's Cup, vero? No, guardi, buonasera a tutti innanzitutto. No, sono a Boston perché ho una serata con gli italiani, gli italoamericani di Boston. E parliamo di vela, ma parliamo soprattutto della Fondazione Mascalzone Latino per i bambini di Napoli, che con una fondazione a cui io tengo moltissimo perché è una scuola di vela per i bambini dei quartieri disagiati di Napoli. questo è il motivo per cui sono qui. Quindi non è già andata a vedere la spiaggia di Newport, che si dice potrebbe essere, oltre a esserlo stato storicamente, una delle sedi più prestigiose, potrebbe anche essere una delle sedi della prossima Coppa America, quella che potrebbe svolgersi nel 2011 e che ha in mascalzone latino proprio lo sfidante ufficiale, no? Dopo il successo di Oracle su Alinghi. Ma guardi, io le dico, è molto più semplice per chi come noi e soprattutto Oracle ha lottato per anni contro le ingiustizie del protocollo proposto da Alinghi, in una situazione veramente tragicamente in salita. Questo è solo il momento di festeggiare, quindi di prendersi un periodo di riposo, di festeggiare, e poi a mente serena, quando ci sarà il riposo, quando il riposo avrà fatto il suo effetto, incominciare a pensare alla prossima Coppa. Un risultato che si aspettava, quello di Valencia, questo 2-0 così netto per Oracle su Alinghi dopo oltre 2 anni di battaglie legali. Assolutamente l'aspettavo, e in più le dirò che più che una supremazia tecnologica che comunque c'era in acqua una forza e una tranquillità da parte degli americani veramente formidabile, e infatti si è visto con le 2 penalità prese in partenza da Alinghi. Senta, ci tolga subito una curiosità. Lei insomma è un grande appassionato di vela, uomo di mare, spesso timoniere anche di mascalzone latino, esperienza che ha fatto anche nella stessa Coppa America, ma avrebbe fatto come Bertarelli, cioè si sarebbe messo al timone proprio nell'occasione più importante in un duello così decisivo? Guardi, io le parlo da timoniere, ho avuto la fortuna nella mia carriera di vincere 6 titoli mondiali. Per timonare a quei livelli, oltre al talento, ci vuole un grosso impegno, ci vogliono giorni, ore, ore, ore al timone. Io non so se Bertarelli queste ore al timone le abbia fatte, ma comunque se lei fa caso, Russell Kutz, che è il più grande timoniere di tutti i tempi, oltre a essere un caro amico, non era al timone di Oracle, perché dedicandosi al progetto ha lasciato che un altro grande timoniere, un giovane di grande talento come Speed Hill, timonasse la barca. Che strascichi lascia questa Coppa America per quella che è stata questa lunga battaglia legale? Si era partiti da Valencia 2007, che era stata una grande festa di pubblico, di sponsor, poi questa estenuante battaglia nelle aule dei tribunali in qualche modo marchia la Coppa America, o si può ripartire? Ma io le dirò che la Coppa America resta sempre la Coppa America. Certamente nel Defender e nel Challenger of Record risiederà la responsabilità di costruire e ricostruire l'evento, aprendolo alla possibilità di avere tanti sfidanti, delle competizioni e delle regole oneste, giuste, che non privilegino nessuno. Questo io credo che sia lo sforzo e il lavoro che si dovrà fare nei prossimi mesi. E poi io devo ricordare che anche dal punto di vista sportivo, avere un legame così forte fra 2 grandi nazioni, l'America come Defender e l'Italia con mascalzone latino, come Challenger Record, credo che abbia anche un significato e un pathos assolutamente particolare. Qual è il peso di questa sfida a livello di immagine per il sistema Italia, visto che comunque il paese riceve critiche spesso giustificate da più parti, dall'estero, e invece in questa sfida così particolare, che pure è una sfida d'eccellenza dello sport mondiale, siamo spesso in prima linea? C'è stata Luna Rossa, c'è stata il Moro di Venezia, adesso addirittura mascalzone latino con questo ruolo ufficiale e centrale nella Coppa. Noi abbiamo come italiani, ma questo in generale, non solo nello sport, una particolare predisposizione all'autolesionismo. Nella realtà, tra vedere il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, lo guardiamo sempre mezzo vuoto. Io dico che questa possibilità che oggi ci viene attraverso la qualifica di Challenge of Record, credo che almeno da parte nostra di mascalzone latino la vorremo, siamo l'Italia, rappresentiamo l'Italia e speriamo di svolgerla soprattutto nell'interesse superiore del nostro paese, un paese che ho portato con la bandiera dell'Italia sui mari di tutto il mondo. Abbiamo vinto e regalato dall'Australia all'America, dall'America al Nord Europa, dal Nord Europa ai Caraibi, siamo stati dappertutto. per cui era il nostro impegno, l'impegno che va avanti da 20 anni e andrà avanti anche con questa campagna. Tanta gente dice, ma è possibile che questi miliardari non hanno nessun altro modo per buttare tutti questi soldi se non la Coppa America, in un momento così difficile per l'economia internazionale, per la crisi globale, insomma, per strada si parla anche di queste cose. Certamente sì, però io le faccio due obiezioni e poi un pensiero. La prima obiezione è che lo stesso discorso vale per esempio per la Formula 1, ma lo si fa solo per la Coppa America. La seconda è che comunque questi soldi non si buttano perché in un certo senso, anzi particolarmente, vanno a sviluppare delle tecnologie sofisticatissime che poi vengono riportate sulle barche da crociera. Terzo punto, è chiaro che uno dei problemi che si dovrà affrontare, vista la enorme crisi economica che stravolge il mondo, è quella di contenere il budget, cioè fare in modo, disegnare un regolamento che mette in condizione anche i team più poveri di poter competere. Quindi certamente l'occhio al budget, e su questo le do pienamente ragione, deve essere una delle chiavi principali del nuovo protocollo. Chiaramente lei ci ha detto, è un momento di riflessione, stiamo ragionando, anche se già si guarda alla prossima Coppa. Quali sono i tre principi base su cui Mascalzone Latino lancerà la sua sfida e quindi porrà le basi per questa nuova Coppa America? Guardi, i tre principi sono quelli di sempre. La passione e ancora la passione. E invece in termini regolamentari? Beh, ancora presto per dirlo. I regolamentari, guardi, le ripeto, oggi è il momento, quando si esce da una lunga notte, come è uscita la Coppa America con la vittoria di Oracle, è solo tempo per festeggiare. Poi verrà tutto il resto. Non bisogna mettere fretta, anche perché la fretta è sempre cattiva consigliera. Senta, signor Onorato, ce lo confessi, la prima cosa che ha detto a Larry Ellison nel momento in cui l'ha visto sollevare quell'America's Cup? Guardi, preferisco autocensurarmi, o dire che non, perché se le dicessi che non me lo ricordo, sei un bugiardo, e quindi mi autocensuro. Prova a leggerle io nella mente, ha pensato a Ernesto Bertarelli e ad Alinghi? Può darsi, ma adesso veramente non mi ricordo. Beh, signor Onorato, allora intanto grazie per questa chiacchierata ai microfoni di Radio 24, in attesa che le torni la memoria, speriamo anche presto perché c'è un regolamento da mettere a punto. Buon vento per l'avventura, per la nuova avventura di Mascalzone Latino, sfidante ufficiale della prossima America's Cup. Perfetto, grazie a voi e a saluto di tutti gli ascoltatori di Radio 24. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Pietro Lacorte in regia, vi ricordo che potete riascoltarci così come tutti i programmi di Radio 24 dal nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento con A Bordo Campo è per domenica prossima sempre alle 14:30. Un saluto da Dario Ricci.